Radio? Radio. E questo è proprio Radio Plaza. Siamo qui in Radio Plaza che vi racconta che cosa succederà il 1° maggio a Via Settembrini a Marigliano. Nuova edizione, quinta edizione di 1° maggio, occhio all'ingranaggio. E allora partiamo subito, vi raccontiamo subito cosa succederà di mattina. Anzi, o meglio, per tutta la giornata ci saranno gli stand con Genuino Clandestino, un movimento in cui convivono singoli e comunità in costruzione, aperto a tutte le persone senza gerarchia né portavoce. Genuino Clandestino, un movimento antirazzista, antifascista, antisessista. Per tutte le informazioni, genuinoclandestino.it. E in diretta adesso su Radio Plaza stiamo ascoltando Autunno dei Moresca Nova, dall'album Musica Nova del gruppo Musica Nova. Buon ascolto Radio Plaza. E a proposito di Genuino Clandestino, qui a Marigliano, il 1° maggio 2023, a Via Settembrini, nell'organizzazione del 1° maggio di Occhio all'Ingranaggio, ci saranno i rappresentanti di Genuino Clandestino Campania, delegazione della Campania. E leggiamo dalle loro vive voci: siamo contadini, consumatori, critici, attivisti politici, che condividono l'idea di partire da un cibo sano ed accessibile a tutti per instaurare relazioni sociali e circuiti economici alternativi a quelli dominanti. Eh sì, e durante le feste e i mercati sarà possibile trovare cibo genuino e prodotti artigianali che rispettano la terra e la dignità del lavoro, fare la spesa tutelando la propria salute e mangiare insieme. Uno spazio permanente di cura, di autodeterminazione alimentare, di saperi e di sapori, di musica indipendente, cultura da basso e socialità liberata. 1° maggio 2023, qui a Marigliano, Occhio all'Ingranaggio, ci saranno Genuino Clandestino con noi. E essendo tutta la giornata la festa del 1° maggio, ricordiamo a tutti, 1° maggio, occhio all'ingranaggio a Via Settembrini, qui a Marigliano, autoproduzioni Collettivo Utopia. Da non fraintendere, chiaramente, da non fraintendere. Questa è Radio Plaza e quel giorno, essendoci tutta la giornata, tenteremo anche di mangiucchiare qualcosa, speriamo, in un menù abbastanza solidale, equo e vegano. Vegano? Vegetariano. Almeno vegetariano. E ci sarà con noi a cucinare qualcosa, cucina clandestina. E vediamo come si presentano. Intendiamo la cucina come un campo di lotta. Trasformiamo prodotti che non provengono da circuiti di sfruttamento umano, animale e dell'ambiente, e ci riforniamo solo da piccoli produttori e produttrici che rispettano la terra in ogni aspetto della filiera produttiva. Ci ostiniamo a diffondere una pratica che concili qualità dei prodotti e arte culinaria anche in luoghi dove storicamente centri sociali e beni comuni napoletani, ciò che si mangia pare essere l'ultimissimo problema. Okay. place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girl. E mentre ascoltiamo Kingston Town, vi presento Jacopo Camera, la Fucina dell'Arte, Galleria dell'Arte. Anche lui sarà tutto il giorno presente a Marigliano per la quinta edizione di Occhio all'Ingranaggio, un'associazione artistica, la Fucina dell'Arte, che nasce dalla passione di due artisti, madre e figlio, Jacopo Camera e Antonietta Fierro, attivi nel panorama artistico nazionale, motivati dall'amore per l'arte e dalla ricerca, sperimentazione nel campo della pittura e della ceramica artistica. La Fucina dell'Arte è dotata di sala espositiva e laboratorio, ospita mostre di pittura ed eventi artistici vari, e si tengono inoltre nelle loro stanze corsi di ceramica, disegno e tecniche pittoriche. Questa è Radio Plaza, siamo ancora su collettivoutopia.noblogs.org. E questi sono UB40 con Kingston Town. Buon ascolto! Oh yes, Jacopo Astorius in questo momento passa su Radio Plaza, il brano è Come On Come Over, Jacopo Astorius su Radio Plaza in questa giornata in cui presentiamo il 1° maggio 2023, e abbiamo già fatto un elenco di quelli che saranno gli ospiti speciali, tutti gli ospiti speciali di questa quinta edizione del 1° maggio, Occhio all'Ingranaggio. Ricordate, lo faremo a Via Settembrini, strade nuove, inauguriamo strade nuove, occupiamo spazi nuovi, spazi larghi, alla luce del sole. Apriamo menti nuove, allora, va, mettiamola così, su Come On Come Over. Sì, su Come On Come Over, nel programma ci sarà questa organizzazione che viene da Scampia a Napoli, Chirom e Chinò. E Chirom e Chinò nasce nel 2002 come gruppo informale e poi si trasforma in associazione di promozione sociale. Mette in pratica interventi pedagogici, sociali e interculturali insieme alla comunità rom e italiana nel quartiere di Scampia a Napoli. Chirom e Chinò, laboratori interculturali, creativi e di cittadinanza attiva, centro di resistenza contro la disumanizzazione, spazio di lotta per il diritto a un'esistenza dignitosa di migliaia di persone costrette a vivere ai margini. Una vera e propria rivoluzione culturale attraverso riflessioni e azioni concrete e quotidiane. Sì, Chirom e Chinò verrà a presentare anche un libro attraverso una nuova modalità di presentazione, il teatro di carta. Molto interessante e molto curioso, quindi invitiamo tutti a essere presenti il 1° maggio 2023 con Chirom e Chinò. Radio Plaza. Eh sì, su Radio Plaza ancora la presentazione del programma. Siamo nella parte della mattina in questo momento. Quello che succederà il 1° maggio a Via Settembrini per la quinta edizione di 1° maggio Occhio all'Ingranaggio. Ricordiamolo, è il 1° maggio del collettivo Utopia, autogestito, autoprodotto, autonomo. E insieme a noi quel giorno ci sarà anche A Piedi Nudi, Homeschooling Outside. Un progetto di vita, un luogo in cui si cresce sperimentando insieme ogni aspetto della vita in natura. Homeschooling a piedi nudi nasce dall'incontro di volontà ed intenti genitoriali per creare, dare vita ad un luogo magico, vero, vivo, a contatto con la natura. Ad Homeschooling Outside a piedi nudi si sta insieme, ci si aiuta, si acquista sicurezza di sé e del proprio posto nella comunità. Altro Radio che asilo! Plaza. Radio Plaza! We'll be right back. Radio Plaza. Vado io? Chiedo lumi alla regia e dicono che sono un provocatore. E allora con noi quel giorno, il 1° maggio, ci sarà anche Sound System Contadino, che presenterà Radici di Gramigna. Sound System Contadino di Gramigna Hi-Fi, da Officine Gramigna, associazione di promozione sociale anche loro, luoghi di confronto, sperimentazione ed elaborazione, di messa in opera e di creazione, spazi laboratoriali di autoproduzione di principi e pratiche di vita materiale e immateriale, di liberazione dal lavoro vivo. Sound System Contadino, da non perdere. Alle ore più 13, meno, tra più le 13 e ora pranzo. Ora pranzo. E poi ancora di mattina alle ore 12 letture e ascolti da Mudra Box di Daniela Allocca, curatrice, scrittrice e guida ambientale escursionistica. Concentra le sue pratiche sullo sviluppo di relazioni ecologiche attraverso metodologie ispirate alla permacultura e alle pratiche somatiche. Nel 2003 pubblica il libro d'arte Mudra Box presso il laboratorio Le Edizioni. Daniela Allocca, co-editor del progetto Was Compost Radio, insieme all'artista svizzero che noi salutiamo, Alan Alpenfest. Saluto da Alan Alpenfest, yes. Con il suo progetto Prevezia Migros per cento culturale. Tutto questo sarà a Marigliano il 1° maggio a Via Settembrini dalle ore 11. Lo dicevamo prima, con il teatro di carta di Chiron Mecchinò, alle ore 12 il laboratorio di Tullè a Piedi Nudi. E poi dicevamo, ora stiamo raccontando, dopo il Sound System Contadino, cosa ci farà sentire e vedere Daniela Allocca. Ma prima ancora un po' di musica, Radio Plaza. I Doors. Radio Plaza! Siamo un po' in ritardo, comunque, come Wandering Translator, Daniela Allocca sviluppa per il Goethe Institute di Napoli e cura format per la diffusione della poesia contemporanea, tipo radiopoesia, translation e slam, e nel 2023 il ciclo di incontri, le forme e i suoni del Goethe Institute. Goethe? Scrittrice e interprete vocale nel progetto Storytelling elettronico con Alessandro Ferrara, ospita al TED di Napoli Jump del 2018 e con la performativa talk, ma come scrivi, Translation Saved My Life. E allora prendi fiato sulle note di Brown Eyed Girl di Mar Morris, la stiamo ascoltando in sottofondo. Radio Plaza. And whatever happened Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you. E sempre parlando di Daniela Allocca, mazza quanta roba, sviluppa diversi progetti incentrati sulla pratica del camminare con Progetto Fiori, le reti interuniversitarie, laboratori del cammino, ecologie, politiche del presente e Cool City. docente di lingua, letteratura e traduzione tedesca in diverse università italiane 2010 e 2020. Insomma, una persona da conoscere, da vedere dal vivo al primo maggio, occhio all'ingranaggio a Marigliano. Qual è il brano presuccessivo? E allora con calma. Ok, mentre, con molta mentre, calma, mentre... anche perché siamo proprio alla fine. Alla fine di tutto. Della prima parte. Ah, no, siamo all'inizio Radio Plaza. Allora. Siamo solo all'inizio Radio di Plaza. Questa nuova puntata di Radio Plaza. Allora andiamo in musica. So hard to find my way. Just the other day, my, you have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. Partirà uno spettacolo teatrale, ma prima dello spettacolo teatrale ci sarà con noi come ogni anno la Murga. Espressione artistica di strada del carnevale, soprattutto di Buenos Aires, dove è diventata finalmente patrimonio culturale, avendo un'origine molto molto antica ed avendone passate tante nella storia. Un'arte di strada migrante che viaggia e ha viaggiato insieme alle persone. Un'arte di strada fatta di canto, musica e teatro. In Italia dal 2001 parte da Roma, ma oggi in Italia sono attive circa 26 gruppi di murga. E a Marigliano anche quest'anno tornerà la murga del... Mi sono persa! Con la murga Portegna del Frente Murghero Campano. Ah, era quella! Ma Bruso Frente! Radio Plaza! Vabbè, proseguiamo dritti! Dritti sempre, senza mai sguardare indietro! Allora, volevo dire, per chi non l'ha riconosciuto, questo è Pino Daniele, il brano è Tutta una storia, dall'album... Vediamo se ve lo ricordate... E io non me lo ricordo, però... Nessuno si ricorda l'album di... No. Si accettano suggerimenti, mandateci suggerimenti. Nero a metà, si dicono. Vabbè, l'album non è Nero a metà, ma è Bella Ambriana. Vabbè, comunque andiamo avanti. Dopo la murga, a quell'ora più o meno... La murga bella però, eh? Rianimazione con la murga, rianimazione marigliana con la murga. Ci la sarà... Murga, perdona, ma la murga tutta questa farà suspense, una grande sta parata, per arrivare il grande una ospite. Grande parata per la città di Marigliano e ci porterà tutti verso via Settembrini sotto il palco di Primo Maggio, occhio all'ingranaggio del collettivo Utopia. Dove ci sarà il Living Theater. Living Theater. Sì, proprio quello lì. Living Theater, sessione Europa. Teatro vivente, Living Theater, facciamo una traduzione proprio per gli imbecilli, diciamo così. E mi raccomando, imbecilli, cercate sempre l'origine delle parole per imparare qualcosa. Il Living Theater è uno dei gruppi teatrali che con più forza ha marcato l'identità del teatro della seconda metà del Novecento. Il Living Theater è uno dei gruppi teatrali che con più forza ha marcato l'identità del teatro della seconda metà del Novecento. Mi sono ripetuto? Vabbè, bene ripetere. Nato alla fine degli anni 40 negli Stati Uniti ad opera di un giovanissimo pittore, cioè Julian Beck e Judith Malina. Il Living Theater sperimenta, modernizza e realizza un teatro in cui arte e vita si sono sempre sovrapposti fino a rendersi indistinguibili l'uno dall'altro. E ci presenteranno qui a Marigliano lo spettacolo Paradise Now. Eh sì, il Living Theater presenterà qui a Marigliano quello che è il risultato di un laboratorio che terranno nei giorni precedenti proprio qui a Napoli. Realizzare il paradiso, portarlo in vita e far sì che il pubblico assapori e senta la sua possibilità. E far sì che le persone escano con il desiderio ardente di cambiare il mondo, che è davvero possibile. Paradiso ora! Ecco quello che chiede il Living Theater, che ha dato vita a questa idea nel 1968. Accidenti. Sfidando le persone a esplorare insieme al teatro le domande più scottanti di quel momento e di questi momenti. Domande che forse non avevano mai osato porsi. Rompete il circolo vizioso del silenzio. Date voce ai vostri e ai nostri desideri più ardenti. Ardenti. Questo è il Living Theater. Radio Plaza. Cosa stiamo ascoltando? Oppa, tuppa, za za za, Brigata Internazionale, Daniele Sepe. Zuba, ma demanda c'hai in buca, giù dai camare, a comicelle. Oh, pazzuba, ma demanda c'hai in buca, giù dai camare, a comicelle. E allora, sulle note di zuppa zuppa zuppa pa sarà, vi ricordiamo zuppa pa mi piace sperimentare con le parole, con i nomi anche. Sì, vi ricordavamo quindi che ad aprire il concerto sarà Sara Piccolo con le sue folk stories. Si chiama proprio così? Sara o Piccolo, ha inventato questo nome? No, questo credo sia proprio quello giusto. Poi glielo chiederemo il 1° maggio a Stazione Utopia. No, mamma. A Stazione Utopia? Volendo sì, detto, perché Stazione Utopia è ovunque. A Stazione Utopia. Radio Plaza, detto. Stazione Utopia. No, quest'anno è a Via Settembrini, poi tutta la storia di Stazione Utopia la conosciamo, ma ne parleremo ancora. Sara Piccolo and Dr. Nautilus sono due cantautori che si incontrano nel territorio amato da entrambi, il folk. Wow. Tra inediti e rivisitazioni di brani popolari nasce il desiderio di tenere in vita lo spirito della tradizione americana. Pare che Sara Piccolo non ci veda. E questa è musica per pochi intenditori, signori, per pochi intenditori questa musica, lo diciamo, ci siamo, questa è Madonna Radio Plaza. Allora, poche intenditrici, direi io. Questo è un luogo comune. Un altro passaggio del 1° maggio, passaggio del 1° maggio, occhio all'ingranaggio, sul palco del 1° maggio a Via Settembrini, qui a Marigliano. Il 1° maggio ci saranno i Cibo. Chi sono i Cibo? Si chiederà. Chiedimi chi sono. E chi sono i Cibo? Chiedimela. Fammi una domanda ogni tanto, così io. Ma me la dai una risposta? Non posso dartela, in quanto quando l'ho fatta a uno di loro, di questi Cibo, io ho detto: senti, ma come volete che vi presentiamo poi alla radio quando faremo questa presentazione? Loro hanno detto: nulla. Beh, è Madonna, sì, è Madonna, e il brano è Isaac, dall'album Confession on a Dance Floor. Sì, siamo qui in piazza Municipio e della Pipparella Marigliano. Oggi è 23 aprile 2023 e siamo qui a presentare il programma del primo maggio. Occhio all'ingranaggio che ci sarà a breve. Stiamo presentando il palco, stiamo presentando gli ospiti, tutti quelli che ci sosterranno quel giorno. E siamo arrivati alla The Turcos Meet the Little Davis, un altro mega gruppo sperimentale, musica sperimentale, e vediamo che cosa scrivono nella loro biografia. Musica delle ossa è la combinazione, l'incontro e la commistione di musiche popolari del sud Italia, paesaggi sonori sperimentali e improvvisazioni con pratiche e tecnologie espanse, tradizionali e contemporanee. Ogni anno dal 2011 nella remota campagna di Benevento in Italia si tiene una 2 giorni di musica altra chiamata World Burn Dance, che scuote gli spiriti. Lì molte realtà underground si uniscono per suonare musica improvvisata. Ed è questa la voce che mi piace, l'avete capito che io sono fan, però andiamo avanti, vi stiamo presentando i Turcos Meet the Little Devils. Dicevamo che nel contesto delle campagne di Benevento nascono i Turcos Meet the Little Devils. Come dicevamo prima, questo ensemble vede al suo centro un duo molto affiatato, Giovanna Turco e Giovanni De Luca, che si sono dedicati per decenni alla pratica e allo studio della musica popolare del Sud Italia ed insieme hanno creato un approccio folcloristico alla sperimentazione e alla collaborazione. Tutto questo su Radio Plaza. E per il primo maggio, occhio all'ingranaggio, edizione 2023, quinta edizione a Via Settembrini qui a Marigliano. Vi aspettiamo tutti? Tutti e tutte, tutti al concerto del primo maggio, occhio all'ingranaggio. Smuovetevi. Radio Plaza, mamma di la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E mentre vi presentiamo quello che succederà il primo maggio a Via Settembrini a Marigliano con il collettivo Utopia e tutte le persone che saranno presenti lì, vi ricordiamo che invece adesso, proprio in questo momento, in piazza qui, in piazza Municipio, sotto le Pipparelle, insomma, dove siamo adesso noi ora con la radio, c'è un banchetto, il banchetto del collettivo Utopia, che vi accoglierà con dolci squisitissimi, un caffè che non ve lo dico proprio, una crema e caffè, e per di più tutto questo per chiedervi di partecipare alla raccolta fondi per il primo maggio del collettivo Utopia, un primo maggio completamente autoprodotto. No coca, no coca, no coca in my brain. No coca, I know every Indian go in my vein. Cause I love you. Come on, I will. When Bubba go to England, go and check. Comunque, in generale non bisognerebbe dire bugie, diciamoci la verità, il primo maggio a Marigliano, roba che non si vedeva da secoli, primo maggio serio. Allora, non fidatevi delle imitazioni e delle statali convenzioni, andiamo avanti, andiamo oltre, e l'ospite è ancora più speciale, sempre più speciali. Tutti specialissimi i nostri palco ospiti, del primo, certo, maggio. Questo viene un po' da lontano. Palco del primo maggio. Dall'estero. Palco del primo maggio che appunto ospita gente che viene da Milano. Vado! Alessio Lega qui al primo maggio a Marigliano. Ospite veramente, lo stiamo invitando da decenni, è riuscito finalmente a comprarsi un biglietto del treno per arrivare da noi. E Alessio Lega è uno dei cantautori, perché c'è gente che non lo conosce, Alessio Lega è uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione, nonostante ci sia gente che non lo conosce, ed è uno dei più stimati dalla nicchia degli appassionati del genere. La nicchia degli appassionati. Ha messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze, concerti sulla canzone d'autore mondiale, sulla musica popolare e di impegno. Dopo un'assidua frequentazione col nuovo canzoniere italiano, è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d'autore e riproposizione dei reperti storici. È citato nei dizionari addirittura. Alessio Lega nei dizionari Garzanti, Giunti, Rizzoli. Si è guadagnato i riconoscimenti più ambiti come la targa Tenco, il premio Lunezia, eccetera, eccetera. È inserito in antologie di libri, nei libri, in DVD. Comunque, Alessio Lega è un ospitone. Eppure Alessio non rinuncia al nobile donchisciottismo di cantare dove gli piace, piuttosto che dove si deve, andando in giro a tentare di cambiare se stesso e il mondo con le canzoni di cui fa l'autore, l'interprete e lo storico. Quello che stiamo ascoltando su Radio Plaza in questo momento è in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org e in diretta live qui in Piazza Pippa Marigliano. È Alborosi con No Cocaine. No Cocaine. Sul palco del 1° maggio ci sarà ancora Giuseppe D'Alessandro con il suo strumento, il suo oud, solo composizioni e improvvisazioni dal mondo arabo. Wow. Giuseppe D'Alessandro lo conosciamo come Peppe, lui è un musicista, studente di lingue araba e persiana, viaggiatore, lettore, un recente passato da pittore che prima o poi tornerà presente. Sarà anche lui sul palco del 1° maggio, occhio all'ingranaggio a via Settembrini. Radio Plaza, frequenze dinamitarde.